Titiriti, titirita, titirimundi va a llegar. Titiriti, titirita, titirimundi va a llegar. Titiriti, titirite, titirimundi ya se ve. Titiriti, titirite, titirimundi ya se ve. Titiriti, titirito, titirimundi ya llegó. Titiriti, titirito, titirimundi ya llegó. Titirita, titiriti, titirimundi ya está aquí. Titirita, titiriti, titirimundi ya está aquí. Titiriti, titiritero, titirimundi es lo que quiero. Titiriti, titiritero, titirimundi es lo que quiero. Titiriti, titirita, titirimundi ya se va. Titiriti, titirita, titirimundi ya se va. Titiriti, titirite, titirimundi ya se fue. Titiriti, titirite, titirimundi ya se fue. Titiriti, titirito, titirimundi se marchó. Titiriti, titirito, titirimundi se marchó. Titiriti, titirita, titirimundi volverá. Titiriti, titirita, titirimundi volverá. Titirita, titiriti, titirimundi ya está aquí. Titirita, titiriti, titirimundi ya está aquí. ¡Bien!